Italia in controluce. Bentrovati da Roberta Pellegata, Italia in controluce, lo spazio quotidiano di Radio 24 dedicato alla cronaca, ai personaggi, alle storie grandi e piccole che raccontano le luci e le ombre del nostro paese. E oggi continuiamo il nostro viaggio tra le regioni d'Italia in vista delle elezioni di marzo. In apertura andiamo a fare una visita in Lazio. Una visita medica, è il caso di dire, perché nella regione di Roma il nodo da sciogliere è proprio quello della sanità. In Lazio l'enorme debito viene pagato al momento soltanto dai pazienti, mentre le amministrazioni si rimpallano le responsabilità. Maria Chiara Grandis. Il Lazio rappresenta la metà del debito sanitario nazionale. Dopo aumenti di aliquote e IRAP, la regione chiuderà i conti 2009 con un disavanzo di oltre 1,3 miliardi di euro. Con l'aiuto dello Stato e un mutuo trentennale di 380 milioni l'anno, si sta invece ripagando il debito accumulato. 10 miliardi di euro, l'equivalente di una finanziaria. L'ex governatore Piero Marrazzo dice di aver ricevuto i conti in rosso come eredità dall'ex presidente Francesco Storace. A sua volta il leader della destra attribuisce il buco alla giunta precedente, che si insediò nel 95. Quello che è certo è che conseguenza o causa di tutto ciò sono i problemi della sanità pubblica della regione. Oggi competenza del commissario Elio Guzzanti, in carica dalle dimissioni di Marrazzo nell'ottobre scorso. Fra le aree critiche c'è la medicina territoriale, anche a fronte di una popolazione che invecchia. Nel Lazio gli over 65 sono oltre 1 milione di persone, un quinto del totale. Una situazione che il segretario del Tribunale per i diritti del malato, Giuseppe Scaramuzza, conosce bene. I malati cronici in questi ultimi anni sono quelli che stanno soffrendo di più, quindi parliamo di gente che sta a casa con malattie reumatiche, malattie cardiovascolari, diabetici, ecco, tutte queste persone che hanno difficoltà di accesso dal punto di vista sia dei farmaci ma sia anche delle, diciamo, di terapie che molte volte andrebbero fatte magari in dei hospital o anche in strutture non ospedaliere. Così si allungano le liste d'attesa e i cittadini del Lazio si rivolgono al tribunale per i diritti del malato. Una visita dermatologica, un signore, ecco, di Ariccia ce l'ha segnalato, gli hanno dato l'appuntamento per il 2012. Quindi questo penso che sia veramente un diritto negato, ecco, no? Se la capitale vanta strutture ospedaliere d'eccellenza, ottimi reparti di ematologia e cardiochirurgia, nel resto della regione, che conta 182 istituti di ricovero in totale, la situazione è diversa. Segnalerei il problema di ospedali, diciamo, cosiddetti di montagna sono stati chiamati. Quelli sono presidi importantissimi e hanno bisogno di un servizio adeguato, quindi non si può soltanto trasformare in semplici poliambulatori come sembra. Per esempio penso all'area dell'ostetrice e della ginecologia, penso all'ospedale di Subiaco, ecco, no? Dove la gente per partorire è costretta a fare chilometri prima di arrivare a un altro ospedale che è molto lontano. Per sistemare i conti della sanità nel Lazio il commissario Guzzanti propone riduzione dei posti letto, oggi circa 26.000, nuovi ticket al pronto soccorso, compartecipazione per l'acquisto dei farmaci anche per gli esenti, tetto alle convenzioni con la sanità privata e un altro anno di blocco del turnover per ridurre di 1.100 unità il numero dei dipendenti ASL. Dopo le elezioni toccherà al nuovo governatore del Lazio prendere in mano i conti e problematiche della sanità pubblica. Per il Popolo della Libertà la candidata è l'ex sindacalista Renata Polverini. Il suo obiettivo è ridurre il debito in 3 anni. Ripartendo dalle eccellenze ma allargando anche alle strutture territoriali e all'assistenza domiciliare, ci sarà un abbassamento del numero delle ASL, scioglieremo gli enti inutili che in questi anni sono proliferati ma non hanno evidentemente nessuna utilità, guarderemo ad un unico centro di costo proprio per evitare che da una ASL all'altra lo stesso prodotto abbia un costo differente, seguiremo la spesa farmaceutica, parleremo di un centro informativo di prenotazioni unico perché è impossibile oggi accedere a tutte le disponibilità che invece ci sono. Chiede ai partiti di uscire dalla gestione della sanità la radicale Emma Bonino. La candidata del Partito Democratico punta su trasparenza, controllo e monitoraggio per risolvere i problemi della sanità nel Lazio, intorno ai quali ruota gran parte della campagna elettorale per le regionali di marzo. Una delle cose che credo io è quello di usare forme diverse di assistenza. Quindi insomma un ripensare alla salute complessivamente, a come non andarci in ospedale, come prevenire, come cercare le pratiche migliori usate in Europa e in altre regioni per cui ci sono altri tipi di assistenza domiciliare. domiciliare, oppure ci sono le case famiglia, oppure ci sono i centri diurni, in modo che non tutto venga intasato in questo modo. Italia in controluce. Dopo le ombre e luci del nostro paese, dal Lazio saliamo lungo la penisola e arriviamo in Piemonte. Qui il suo capoluogo ha saputo evolversi, valorizzarsi come poche altre città sono state in grado di fare. Torino, da capitale dell'automobile, si è trasformata in un centro della cultura, diventando un modello a livello europeo. Riascoltiamo Marco Ferrando. Tanto la ragione è un'altra. Io l'amore ci credo. Per me è una roba seria. Ma io ti sembro allegro. C'era una volta la Torino nebbiosa e ostile, dove neppure capirsi era cosa facile, come raccontava magistralmente Lina Wertmüller in una scena storica del suo Mimì metallurgico. Sotto la mole si veniva per lavorare, i torinesi se ne stavano tappati in casa e tutto il resto veniva di conseguenza. Le partite allo stadio in autunno, le passeggiate al Valentino in primavera, le lunghe ferie d'agosto, leggende metropolitane ma fino a un certo punto, di una città su quattro ruote, in quegli anni protagonista divertita per restare ancora al cinema della celebre fuga al volante di Tremini di Michael Caine in Italian Job. Era il 1969 e dai portici al Palavela, dai Murazzi sul Po fino al Lingotto, Torino era la città a misura d'auto. Ben poco è rimasto di tutto quello, a partire dai luoghi che hanno fatto da cornice a quel mitico inseguimento. Il Palavela, tempio del pattinaggio, i Murazzi, punto di riferimento di una sorprendente movida torinese, le vie del centro chiuse al traffico e Palazzo Madama con la sua scalinata barocca restituita al grande pubblico. Volente o nolente, Torino ha cambiato pelle, molto ci ha perso e molto ci ha guadagnato nel salutare il paradigma della città fordista. Certo è che come poche altre metropoli in Europa il cambiamento lo sta vivendo da protagonista, accompagnata da una pianificazione strategica partita a metà degli anni 90, culminata con le Olimpiadi del 2006 e che ora punta a un nuovo traguardo, fare di Torino una città della conoscenza. Ad accompagnare e monitorare i piani strategici dal 1997 opera un'associazione, Torino Internazionale. La direttrice Elisa Rosso. Torino città della conoscenza è uno slogan. Gli slogan servono ai piani strategici per dare un'immagine anche sintetica dell'obiettivo che si vuole raggiungere. Significa che per una città costruita intorno nell'ultimo secolo, intorno alla produzione di beni di largo consumo, alla produzione industriale di massa, il valore aggiunto anche in campi industriali, ma non solo, anche in quelli terziari, si sposta verso fattori di tipo immateriale, che possono essere la creatività, il design, la ricerca, l'innovazione, l'impiego delle nuove tecnologie, che possono diventare addirittura settori economici. I numeri dicono che oggi sotto la mole il manifatturiero vale il 28% del PIL e la palma di città più industrializzata in Italia è passata a Bologna. A Mirafiori le tute blu sono 10.000, ben poche rispetto agli 83.000 studenti universitari. Già l'università. La Fondazione Rosselli ha calcolato che università e Politecnico ogni anno mettono in moto una macchina che vale centinaia di milioni, segno evidente del fatto che l'economia della conoscenza non è un modello astratto, ma un settore vero, soft finché si vuole, ma capace di creare ricchezza. E poi la cultura a 360 gradi, un sistema articolato e contagioso, capace di offrire soluzioni adatte a palati diversi, che ha colpito chi a Torino ci è venuto proprio per fare cultura, come Mario Martone, da 2 anni direttore dello Stabile Cittadino. Al di là del fatto che ci sono istituzioni comunque attente alla cultura, al di là del fatto che ci sono chiaramente tanti artisti torinesi, eccetera, eccetera, ma è soprattutto è proprio questa forza dei cittadini, insomma. A me piace questo di Torino. Un clima vivace capace di attrarre, come dimostrano i nuovi volumi di un settore fino a qualche anno fa ritenuto secondario come il turismo. Ancora negli anni 90 la media sotto la mole era di 2 milioni di presenze l'anno, adesso si veleggia 1 milione più in su, merito delle Olimpiadi e non solo, come racconta proprio la signora di Torino 2006, Evelina Cristillen. L'offerta culturale è diventata importante e continua durante tutto l'anno, quindi non è legata soltanto a un evento particolare. Fino a 10 anni fa il luogo simbolo era Mirafiori. Oggi? Ma forse la Mole Antonelliana, fa ridere dirlo, ma da quando ci ha messo il Museo del Cinema dentro è uno splendido crogiuolo di storia antica, di ebraismo, di cristianesimo, di arte, di futuro, di tecnologia, di memoria, perché no? Se la Mole ha preso il posto di Mirafiori nell'immaginario dei torinesi e non solo, nella realtà c'è ancora molto da costruire per completare la conversione da città dell'auto a città della conoscenza e dell'innovazione. Molto da costruire e anche da proteggere, per evitare che la crisi con i bilanci pubblici e privati ridotti all'osso si porti via quel che di buono si è costruito negli ultimi 20 anni. Il comitato Giorgio Rota ha calcolato che nel 2007 tra Torino e provincia gli investimenti sulla cultura hanno superato i 300 milioni, ma di questi oltre 200 arrivavano dagli enti locali, proprio chi oggi è costretto a tirare i remi in barca. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Aspettiamo le vostre storie all'indirizzo email controluce@radio24.it oppure attraverso Facebook, dove è molto facile trovarci. Grazie per averci seguito. Italia in Controluce torna lunedì alle 6:30. Da Roberta Pellegatto una buona giornata e un buon fine settimana.